le famiglie con figli, che sono il patrimonio sociale su cui il nostro paese deve fare assolutamente conto se vuole avere un futuro. Perché per il momento rimane quella cifra che io ho letto, 1000 euro a famiglia, questo era per esempio quello che aveva stimato il Corriere della Sera, che questa manovra... Della Sera, come sai, altri giornali hanno totalmente sbagliato i conti, poi il giorno dopo l'hanno dovuto mettere, perché non è così. Quant'è allora? Per commentare le manovre di solito bisogna anche leggere come ha fatto 24 ore in maniera corretta, perché non sono di facile lettura, quindi è facile moltiplicare da 40 miliardi, si è detto fino a 80 miliardi di euro, bisogna i numeri verificarli nella realtà. C'è un grande problema di politiche familiari nel nostro paese, e torno a dire, non è un problema, è il problema. Che perché lei per questo si era quasi dimesso in passato, cioè aveva detto lascio la delega alla famiglia, poi... Sulla delega alla famiglia sicuramente la riconsegnerò al Presidente del Consiglio se questo impegno politico programmatico, che vorrei vedere riconfermato in settimana, perché in settimana presenterò in Consiglio dei Ministri il Piano Nazionale della Famiglia, che è già stato approvato dall'Osservatorio Nazionale, è stato discusso e sostanzialmente avallato nella Conferenza Nazionale di Milano e deve essere approvato dal Consiglio dei Ministri, ma una parte fondamentale di questo piano è proprio il fattore famiglia, cioè un fisco che venga modificato, o naturalmente sia ben chiaro, per dare agevolazione a chi figli non ne ha, bisogna che chi figli non ne ha, o i figli ormai sono grandi e lavorino, si faccia carico di un po' di spesa. Ma se non viene approvato questo, se non viene approvato questo, lei è pronto a dire ridò le deleghe alla famiglia? Ma non verrebbero svuotate. Certo, riconsegnerei un guscio vuoto, perché se non si fa quello che, ripeto, il governo, la maggioranza, il programma, l'UDC, la Lega, c'è un coro a favore delle politiche familiari, poi tutte le volte che si va in Parlamento qualcuno indica qualche priorità diversa, una volta c'è l'opera, poi lo spettacolo, poi le infrastrutture, poi le forze di polizia, poi la sanità, poi le pensioni. E quello che dovrebbe essere la priorità scivola sempre verso il fondo. Senta, le chiedo, ha visto da qualche giorno che è ripartita, la sera un po' sopita, è ripartita la battaglia contro la casta dei politici, anche oggi Stella e Rizzo in prima pagina del Corriere della Sera, l'editoriale. Insomma, lei si sente di far parte di una casta, o comunque sente di dire abbiamo messo le mani nelle tasche un po' ai cittadini e noi invece no? Non abbiamo. Io mi sento di dire che chi ragiona in questi termini, la casta dei giornalisti, tutti farabutti, imbroglioni come Murdoch, no? I magistrati, ecco, ragionare in questi termini è ragionare in maniera perfettamente sbagliata, perché ci sono parlamentari e politici che per quello che fanno prendono assolutamente troppo e i cui comportamenti sono assolutamente censurabili, e ne abbiamo avuto esempi in questi giorni, e persone che invece politica la fanno a tempo pieno. Dipende solo la differenza che c'è fra un parlamentare che fa tempo pieno, 7 giorni su 7, la sua attività, e parlamentari che invece fanno gli avvocati. A chi si riferisce che ha avuto comportamenti? A Papa, no? Papa, ma soprattutto a Milanese, le cui vicende sono note, e che più volte ho detto e ripeto, sono scandalose soprattutto per quei parlamentari onesti e per quei politici onesti che tirano alla corretta, fanno il loro mestiere, il loro lavoro, vivono di quello che hanno. Senza fare un altro lavoro, e si vedono invece persone che accumulano delle fortune attraverso meccanismi con i quali non sono loro a servire la politica, ma si servono della politica. A proposito di Papa, andrebbe votato l'arresto secondo lei mercoledì? Guardi, io faccio una differenza: quando le accuse sono accuse, mi rifaccio al caso Mannino, al caso anche del collega Romano, cioè concorsi. Gli stessi pubblici ministeri dicono che il reato non c'è, il GIP dice invece che non c'è, insomma tutta una cosa che dovrà essere giustamente determinata se ci sarà in un processo. Allora lì sinceramente di votare l'arresto sulla base di esperienze dal 94 in avanti, dove poi il 90% finiscono prosciolti, non me la sento. E Papa? Dove invece ci sono, sto parlando anche di Papa e di Bisignani, dove sinceramente non ho ancora capito su Bisignani quale sia il reato che ha commesso, quale sia esattamente il comportamento illecito. In altri casi come Milanese, se quello che ho letto, perché naturalmente bisogna fare la verifica, è vero, in questi casi allora non avrei dubbi che il comportamento è un comportamento talmente scandaloso che sicuramente, se fosse alla Camera, io non sono alla Camera, però sono stato Presidente della Giunta dell'autorizzazione a procedere nella scorsa legislatura, quindi conosco abbastanza bene i meccanismi. Se le cose che ho letto corrispondessero alla verità leggendo gli atti, allora in quei casi voterei per l'arresto. Per l'arresto di Milanese. Insomma, sembra quasi da dire, ma non c'entra niente il fatto che era l'ex collaboratore di Tremonti, mentre Papa su Papa. Guardi, mi sembra che leggendo gli atti, per quanto non potete leggere sui giornali e approfondendo, che una delle due situazioni è molto, molto, molto più grave dell'altra. Quella di Milanese. Ah, mi sembra proprio di sì. Insomma, lei comunque dice della casta, no, ma non è una questione di persone, però è una questione di tagli, cioè tutti dicono si sono tagliate, messo il ticket, si è messo, toccate le pensioni. Invece, Ho abbandonato, mi sono messo, nell'80 sono stato eletto consigliere regionale. Sono 32 anni che ogni mese il 25% dell'indennità devo versare obbligatoriamente. Io sono uno di quelli che, se mi dessero indietro i miei soldi che ho versato, quelli che ho versato io, rivalutati, sarei la persona più felice del mondo. Anzi, non voglio nulla, non voglio vitalizio, datemi indietro i soldi che ho versato. Come se l'avessi versato un'assicurazione. E se non voglio vitalizio, ma la avrà. No, voglio dire, datemi indietro quello che ho versato. Sì, sì. Se una legge dice tu non avrai nulla, ti diamo semplicemente indietro quello che hai versato in questi anni, io sarei contentissimo. Poi è evidente che invece chi ha fatto il parlamentare una volta in questo paese 20 anni fa e dopo 5 anni, quando ha 50 o 60 anni, piglia il vitalizio, questa è una cosa scandalosa, ma scandalosa come tutte le colleghe di mia moglie, che ha la mia età e fa ancora l'insegnante, che sono andate in pensione a 40 anni di età, adesso ne hanno 60 circa e per 40 anni piglieranno la pensione dei 40, gli 80, gli 85, dopo aver lavorato 14 però anni. Però la sensazione è che di là, nel caso della scuola, qualcosa è cambiato, nella politica non cambia nulla. E invece è cambiato anche qua, cambiato perché anche quando mi dicono perché non fate, io dico, ma io ho fatto, nella scorsa legislatura, il governo Berlusconi, abbiamo fatto 2 letture della legge, abbiamo riformato la Costituzione, abbiamo tagliato di 1/3 i parlamentari, tagliati, poi arriva il referendum, scalfa il popolo italiano, boccia la riforma, e quindi stabilisce che i deputati devono rimanere 945, ma io lo chiedo agli elettori, ma cosa avete combinato 4 anni fa, quando la riforma era già fatta, i parlamentari erano stati tagliati radicalmente, perché il popolo italiano non l'ha approvata? Staremo a vedere. Intanto, va bene, io la ringrazio, sottosegretario. Grazie per essere stato con noi. Carlo Giovanardi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. E allora, che dire, ci fermiamo, ma rimaniamo sul tema manovra, perché quello che vi chiediamo dal punto di vista politico è che l'opposizione dice ora il governo si dimetta. Abbiamo approvato responsabilmente la manovra, ma ora ci vuole un altro governo. Siete d'accordo? Tra poco. 24 mattino. Eccoci qui alle 8:35 minuti. Parliamo allora del dopo manovra, le reazioni politiche, perché l'opposizione insiste a dire siamo stati responsabili nel votare la manovra nell'interesse del paese, ma ora il governo deve dimettersi. Quello che vi chiediamo oggi è: secondo voi siete d'accordo? Insomma, è una richiesta legittima da parte dell'opposizione? Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Registro su radio24.it e la gente che vota, il 63% dice di sì, è una richiesta legittima, siamo d'accordo. C'è da dire che ieri Walter Veltroni in un'intervista al Corriere dice ora il governo se ne vada, oggi Enrico Letta intervistato dalla Stampa, ora il governo basta, se ne vada. E invece Sacconi, il ministro del welfare, intervistato dalla Repubblica, dice guai ai governi tecnici, noi c'è stato già il governo tecnico del 92-93, andò male, non faremo la fine di DC e PSI, rimarremo fino alla fine della legislatura. Ne vogliamo parlare con il vice direttore dell'Unità, Rinaldo Gianola. Buongiorno Rinaldo, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Saluto anche il direttore del Tempo, Mario Sechi. Buongiorno direttore. Buongiorno. Allora Gianola, la questione è questa: perché, con quale legittimità l'opposizione, si chiedono in molti, chiede ora il governo si dimetta, visto che i numeri in Parlamento e tutte le volte che c'è stata la fiducia ci sono, insomma Berlusconi lo ha dimostrato tutte le volte che è andato con la fiducia, cioè perché dovrebbe dimettersi il governo, in base a che cosa? Beh, perché diciamo che i risultati del governo, la tenuta della maggioranza, anche se tu dici che ha sempre avuto la maggioranza in Parlamento, e soprattutto gli ultimi episodi, in particolare l'approvazione di questa manovra d'emergenza, fatta naturalmente sotto il ricatto dei mercati e la pressione della crisi che stava avanzando, dimostrano che questo governo è assai flebile e ha perso largamente la credibilità che è necessaria per fronteggiare una situazione di questo tipo. Io penso che il governo non si dimetterà, ma sotto il profilo politico e parlamentare dico che dopo una prova come quella della settimana scorsa, in cui la maggioranza ha votato una manovra e questa manovra è passata esclusivamente perché l'opposizione non ha fatto il suo ruolo di opposizione, ma si è ritirata in un angolo in quel momento, perché altrimenti noi saremmo ancora qui a parlare di manovra, di dibattito parlamentare e altro. Beh, dopo questa prova, secondo me, sarebbe necessario un cambio politico, una svolta sostanziale di linea politica del Paese. Penso che questo governo non lo farà, anche se ha perso inevitabilmente negli ultimi mesi la propria credibilità, sia il Ministro del Tesoro, sia il Presidente del Consiglio, anche in episodi che li riguardano personalmente. C'è la questione delle inchieste, la questione insomma di una affidabilità del governo, insomma ballerina, questo mi sembra di capire, che un po', però effettivamente visto che il governo non lo farà, anch'io penso che insomma Berlusconi ha detto più volte andremo avanti fino alla fine della legislatura, che cosa dovrebbe succedere? Un incidente, come qualcuno ha evocato? Gli incidenti secondo me sono all'ordine del giorno, adesso vediamo il caso Papa come si risolve. Ma poi insomma da qui ai prossimi mesi, dopo l'estate, vuol dire l'applicazione anche della stessa manovra di rientro del debito non sarà così semplice. Io mi attendo, anche se questo paese ormai è un po', come dire, indebolito e rattristato, mi attendo che ci sia una opposizione sociale, oltre che politica, molto forte nel paese, e quindi bisognerà vedere se poi, al di là delle prove parlamentari che questo governo deve sostenere, sarà in grado di reggere un'opposizione diffusa, perché qui si sono lamentati i vescovi, i sindacati, seppur debolmente, le fasce sociali più deboli, insomma c'è un e persino le imprese, insomma, per dirci, insomma, questo è un governo che ha aumentato dell'1% la pressione fiscale con una manovra. Insomma, la questione di una opposizione non solo parlamentare, ma un'opposizione anche di sfiducia crescente all'interno del paese, della società civile, come si suol dire. Io vorrei, Mario Secchi, su questo. Allora, è legittima la posizione di dire abbiamo i numeri, come dice oggi il ministro del welfare Sacconi, cercano di abbattere con governicchi o governi forti o governi meno forti, comunque tecnici non legittimati dal voto popolare, ciò che invece è stato legittimato dal voto popolare e ha una sua fine, diciamo, naturale, che è la fine della legislatura. È una posizione, è un'opposizione alle accuse credibile e giusta questa della maggioranza? Sì, devo dire che è una delle posizioni di Sacconi, l'unica forse sulla quale sono d'accordo, per il resto invece no. Però è vero che nei momenti di massima confusione, e questo lo è, basti ricordare la situazione del 92, e questa è simile se non peggiore, e beh, le soluzioni proposte sono sempre quelle dei governicchi, dei papocchi, le soluzioni tecnocratiche che liquidano la politica. E questo non va bene, assolutamente, perché queste soluzioni dimenticano una cosa, cioè il popolo sovrano. Quindi le soluzioni pasticciate no, piuttosto meglio tornare a votare, francamente. Sulla debolezza di questo governo concordo con Gianola, con una differenza: non si può chiedere un passo indietro, ma gli si deve chiedere eventualmente di cambiare passo, eventualmente, se ne ha la forza, altrimenti si attende che questa storia eventualmente finisca e appunto si va alle elezioni anticipate. L'altra cosa che dobbiamo chiederci è per fare cosa un'alternativa, e se c'è l'alternativa a questo governo, a questa maggioranza. Secondo me non c'è. È quello che si presenta davanti ai nostri occhi, addirittura peggiore di quello che c'è in carica. Provo a spiegarmi, ma voi vi immaginate che manovra sarebbe mai potuta uscire dal Parlamento se la maggioranza fosse stata una cosa che va da Vendola ai trotschisti, passando per l'UDC, ai liberal del PD, ai cazzo ex comunisti dell'ex Partito Popolare, passando per i posti comunisti della segreteria di Bersani, i Salemiani e i Leppiani. Sarebbe stata ben peggio di questa. Ho fatto un giochetto per dirvi tutto, cioè, non ne sarebbe uscito niente. Ora, io non sono certo sospettabile su questo, nel senso che io questa manovra l'ho contestata dall'A alla Z, perché questa manovra è qualcosa di abominevole per un liberale. È una pioggia di tasse, di gabelle, non c'è niente per lo sviluppo, è quanto di peggio si possa avere in economia. È, sì. Voglio aggiungere una cosa. È una stangatona repressiva e depressiva. Repressiva perché fa pagare i soliti noti, depressiva perché non svilupperà neanche un 0% di PIL, questa è la verità. E Gianola, che è più bravo di me in queste cose, ma insomma 2-3 libri di economia li abbiamo letti pure noi, sa bene che in una situazione del genere non solo si crea un plus di pressione fiscale enorme, più di un punto percentuale di PIL in alto. Io ho letto degli studi che siamo a 1.44. Sì, però la questione è perché sostituire con un governicchio non si può. Ma tanto non si può. Mira, non si può, è inutile che stiamo a girarci intorno. Non si può sostituire alcun governo per il momento. L'unica possibilità remota sarebbe quella di fare una grossa coalizione. E voi ve lo immaginate un governissimo che c'ha dentro tutti. Quindi, ma non avrebbe Berlusconi, perché la condizione sine qua non è chiaro. Il Presidente del Consiglio fa un passo indietro, c'ha dentro tutti, ma comunque c'ha Berlusconi dietro le quinte, c'ha Bersani dietro le quinte e così via. Ma cosa fanno? Ma non solo, diciamo che il centrosinistra dice, e su questo Gianola, perché anche a dire non solo Berlusconi, ma nessun ministro attuale dovrebbe far parte di un eventuale governo tecnico. Cioè l'accusa da parte di molti è dire la sinistra non vince le elezioni e vuole andare al potere con il solito sistema, quello del governo tecnico, insomma, il governo. Ma insomma, guarda, secondo me adesso quello che chiedono la sinistra è di andare a votare, cioè cambiare la maggioranza, se si riesce, vedere come si pronuncia il paese e poi creare un governo diverso. Io anch'io sul governo tecnico, diciamo, non sono di quelle formule che mi eccitano più di tanto, però vorrei segnalare una cosa che purtroppo quando la politica dimostra tutta la sua debolezza, e questo, diciamo la verità, è uno di questi momenti, ci sono state delle occasioni recenti nel nostro paese in cui i governi cosiddetto tecnici hanno svolto purtroppo, diciamo, un ruolo sostitutivo della politica, ma anche un ruolo importante. Insomma, nel 92-93 noi eravamo in piena crisi economica, ma soprattutto c'era, diciamo, quella cosina che si chiama Mani Pulite, che spazzò via una classe politica e imprenditoriale. Insomma, il governo Amato e poi il governo Ciampi nel 92-93 posero le condizioni in altri momenti economici, perché avevamo ancora la lira, ci fu la svalutazione che diede fiato alle imprese, ci fu il patto dei redditi, l'accordo sulla politica dei redditi che, come dire, alimentò una nuova fase di sviluppo. Quei due governi, diciamo la verità, furono utili al paese in quegli anni, determinarono una svolta del paese. A proposito di quegli anni, sai oggi cosa dice il ministro Sacconi in questa intervista? Preferirò sempre la passione di Nichi Vendola al cinismo di qualche professore cosmopolita e giacobino che parla di interessi generali ma nel concreto serve interessi particolari. A chi si riferirà? A chi si riferirà? Lo diciamo? No, no, non lo diciamo, nel senso, ma chi vuol capire capisce, ma ci fermiamo per le informazioni sul traffico, poi ripartiamo da qui. Io sono o blanco o nero, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, prima di qualche ascoltatore, Mario Secchi, a chi si riferirà Sacconi che dice meglio Vendola, la passione di Vendola, piuttosto che il cinismo di qualche professore cosmopolita e giacobino? Insomma, meglio uno che punta alle elezioni piuttosto. Me ne viene in mente uno che ha scritto contemporaneamente un pezzo sul Financial Times e il Corriere della Sera. Ah, vabbè. Ah, Monti, va bene. Che io stimo, tra l'altro. Sì, perché è uno di quei nomi a cui si fa riferimento per il possibile governo tecnico. In Italia è divertente, perché ci sono, io la chiamo la panchina lunga, ed è la panchina delle cosiddette riserve della Repubblica. In ogni momento di fibrillazione, crisi e così via, la panchina si apre. E allora i nomi, guardate, sono sempre gli stessi: Giuliano Amato, Mario Monti, adesso si è aggiunto Luca Cordero di Montezemolo, anche se in una veste diversa, in realtà più da salvatore, diciamo, della baracca e della patria. Insomma, tutta una serie di nomi che dovrebbero servire alla bisogna. I primi due in particolare, appunto, alla guida di governi tecnici. Però, insomma, i governi tecnici non è che esistono, esistono i governi politici. E qua bisogna decidersi. L'opposizione deve chiedere le elezioni, non che il governo vada a casa, perché il governo non andrà a casa, punto. Sì. È un paradosso, sì, sì, ma no. Chi molla la poltrona? No, è chiaro, ma poi voglio dire, l'hanno detto chiaramente, cioè i numeri ci sono, Berlusconi l'ha detto, e quindi rimarremo fino al 2013. Sentiamo qualche ascoltatore. Nicola dalla provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo fare due promesse, se me lo consente. La prima, voglio ricordare a tutti che il debito pubblico, una parte consistente di colpa ce l'ha molto la sinistra. Sì. E la seconda, è possibile che c'è un disco che dall'inizio della sconfitta che hanno avuto 2 anni e mezzo fa è solo elezioni, elezioni, elezioni e non hanno rimedi a niente. Ma la gente, anche se in questo momento non è che gode di grossi favori, Berlusconi, sì, ma benedetti Dio, non è possibile che si parla solo sempre di elezioni. Ma trovare una soluzione a qualcosa, non ripetere un disco sempre pronto. Ma guardi, il ruolo dell'opposizione, se vuole dire dal primo giorno che c'è un governo, qualsiasi opposizione, cercare di fare opposizione a un governo, il ruolo di trovare soluzioni dovrebbe essere del governo. Questo secondo la normale dialettica democratica. Intanto però la ringrazio, Nicola. Voglio andare in provincia di Modena da Antonio, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io qualsiasi governo ci sia, se facesse il bene dell'Italia sarebbe una bella cosa, ma visto che non riesce a farne la destra né la sinistra, io oggi mi scade l'F24, sono un imprenditore, dovrei pagarlo, i soldi che devo pagare dell'F24 li metto da parte in banca, e poi vado in piazza a Roma, a Modena, a bruciare l'F24, poi mi darò fuoco anch'io, perché con questa gente che promette, poi non si cala mai niente loro, mai un centesimo, ci prendono anche per il culo, è ora di smetterla. Non esageri però, ho capito, ma va bene, ma però non faccio gesti, non annunci queste cose. Rimando la prossima legislatura di pagare l'F24 e farò così con tutti. Vabbè, insomma, se non vuole pagare l'F24 faccia pure, ecco, si fermi lì. No, se non vuole, nel senso, come gesto di provocazione, non lo farà. Fin quando però non si ferma così per la politica, io non pagherò più. Va i bene. Soldi li metto da parte e pagherò la fine. Va bene, però si fermi lì, insomma, con l'F24, alle ore 12 mi darò fuoco perché non ne posso più. Guardi Antonio, stia tranquillo, guardi, se vuole mandi qualcuno in piazza Roma, come viene anche Telemodena e TRC, e vedrà che lo farò senza problemi, non ne posso più. Vabbè Antonio, io intanto sono 28 anni che faccio l'imprenditore, sono un fornaio, un pasticcere fornaio, un panettiere, mi chiami come vuole, un prestinaio, come sì, vuole, sì. Non ne posso più tutte le sere. Guardi, io però raccolgo il suo sfogo. Cosa le devo con dire? Questa gente non ne posso più. Quando un ministro dice un 4.000 euro non arriva a fine mese, a chi vuol prendere? La sua esasperazione, Antonio, io la posso capire. Però cosa posso dirle? Mi ascolti? No. Ho solo detto la mia. Va bene, certo. Lei ha detto qualcosa di più. Insomma, lei ha detto qualcosa di più. Non sento più niente. Va bene, Antonio, intanto facciamo così, che io ho il suo numero di telefono, perché ce l'abbiamo, l'hai lasciato in redazione, la ringrazio di questo. Rinaldo Gianola e Mario Secchi, questa è la prima volta che mi capita. Gianola, tra l'altro prima avevamo il sottosegretario Giovanardi, visto che ha accennato la questione Antonio, anche se in modo così anche drammatico, alla questione dei tagli, dire noi, e invece loro non si tagliano niente. Io sono un po' esasperato anch'io quando intervisto anche oggi Giovanardi, c'è un fuoco di fila, sembra, contro la cosiddetta casta, e la cosiddetta casta, per usare termini che tutti capiamo, si difendono a dire ma no, ma basta, ma siamo stufi, siamo stanchi. Invece non si capisce che sta ripartendo proprio questa campagna, no, contro i costi della politica in maniera molto massiccia, e sembra quasi che nella fortezza si arrocchino a dire no, non respingiamo tutto questo tipo di accuse. È un po' così, Gianola? Ma purtroppo sì, è un po' così, sembra quasi che ci sia una barriera che impedisce di ascoltare e di comprendere le ragioni dei cittadini, perché quando tu chiami le manovra economica di questo genere, quando c'è un aumento verticale delle tasse, quando la tua politica, il tuo reddito diminuisce, ci dovrebbe almeno un segnale, dico io, un segnale, non che si debbano decurtare, tagliare, diventare, ma almeno dateci un segnale, date un segnale ai cittadini che anche voi fate la vostra parte, che anche la politica dà una posizione credibile sulla riduzione. E invece questo segnale non si vede. Questa volta purtroppo non è venuto nemmeno il segnale, perché non basta. Anzi, quando Tremonti ha lanciato dei segnali, pare sia stata una sorta di mobilitazione. A questo proposito, Mario Secchi, sul Tempo, per esempio, fate questa iniziativa per l'abolizione delle province, insomma, auguri ovviamente. Non so se ci riusciamo, certamente raccogliamo consensi. Temo di no, perché non ci è riuscito mai nessuno, sarebbe storico. I giornali servono a questo, cioè a rendere testimonianza di alcune cose, e a noi non potranno certo dirci che non ve l'avevamo detto, nel senso che quello che diceva lei è vero, c'è una marea montante. Questi sono dei pazzi, secondo me, non hanno capito che cosa sta succedendo, ma auguri, verranno travolti completamente. Io mi aspetto un Big Bang elettorale nel 2013, se questo è il clima, colossale. Non hanno la minima percezione di che cosa sta succedendo fuori, e sa perché? Perché sono fuori dalla competizione. Cioè, quella della politica ormai, in particolare della politica alta, nazionale, è una categoria che non fa competizione. Sono nominati, quindi non devono neanche correre per il cosiddetto seggio. Le campagne elettorali sono mediamente pagate attraverso vari canali di finanziamento e vivono in un loro mondo a parte. Pensano che la cosa possa andare avanti così. Non c'è nessun tipo di competizione da questo punto di vista. Quando tu gli dici guarda che i tuoi 15.000 euro di indennità non sono neanche sottoposti al pagamento dell'IRPEF, come per esempio il mio stipendio, il suo stipendio, di Gianola, cioè prelievo medio solo di IRPEF 43%, prelievo complessivo, messi i contributi sociali, quei giornalisti siamo oltre il 60%. Siamo un'azienda che sei mesi l'anno deve lavorare anche di più per lo Stato, no? E così via. E questi no. Ma questo cosa è il punto. Vuole che capiscano? Io ho 30 secondi, ma oggi l'ho lasciata alla fine. Ma oggi Giulio Tremonti si fa vivo, senso che fa una lettera sull'Unità pubblicata ieri. L'Unità, Gianola, Gianola ieri aveva detto: l'Unità si vuol fare un partito. E oggi Tremonti scrive: vi racconto la vera storia. Ho fatto solo una cosa. Gianola, che è questa cosa di Tremonti? Diciamo che noi la notizia era che lui già alcuni mesi fa aveva depositato la cosa, naturalmente in quella coincidenza, questa è la cosa che diciamo ci aveva un po' sorpreso, in quella coincidenza che noi abbiamo saputo solo dopo, sono arrivate diciamo le accuse, le iniziative politiche contro Tremonti da parte non dell'opposizione ma della sua stessa maggioranza. Vi ricordate quando lui andò da Berlusconi dicendogli il metodo Boffo non Ecco, a posteriori diciamo si è creata una spiegazione e la spiegazione, almeno dal nostro punto di vista, Tremonti invece la edulcora molto. È che Tremonti si volesse fare un suo Sbarcare. Invece oggi Tremonti la definisce in questa lettera l'Unità. No, è semplicemente una cosa che ho depositato. Non è un embrione di partito di chissà che altro. Vabbè, intanto io mi devo fermare. Ringrazio Rinaldo Gianola, vice direttore dell'Unità, e il direttore del Tempo Mario Secchi. Andate anche su Facebook, continua la nostra discussione sulla pagina 24 Mattino. Saluto Franco Piantanide, redazione, Roberto Scattritti oggi in regia, e la linea passa a Oscar Giannino. Ci sentiamo domattina alle 7:20.